dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E benvenuti, avete preparato i salvagenti perché sta per iniziare L'Onda in Onda. Come ogni mercoledì alle 18 alle 20 vi terremo compagnia qui dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese. Al momento sono ancora solo perché Antonio ritarda, ma arriverà fra pochi minuti qui in studio con me anche lui. Dall'altra parte del vetro Bummo e io direi... Buonasera. Ciao Bummo, come stai? Bene. Allora io direi di dare subito i nostri contatti: radiopanorama.info o.eu per chi vuole vederci in streaming appena attiviamo la webcam, cioè fra circa mezzo secondo. Lo dirò al mio regista che prontamente vi farà vedere noi sulla webcam e ci potrete anche ascoltare, ecco, da adesso. Come per magia potete anche vederci. È sparito il fuori onda. Poi SMS al 380 76 90 204. Ripetiamolo di nuovo: 380 76 90 204. Scusate, mi sono schiarito la gola. E poi ovviamente i nostri contatti: facebook.com/londainonda e twitter.com/londa onda in onda senza la L, il profilo Twitter, per interagire con noi e commentare la puntata o farci delle richieste se ne avete e se volete ascoltare qualcosa che sia in linea con il nostro programma. Vi anticipiamo invece che oggi non ci saranno le consuete interviste per la nostra rassegna indie rock e pop, in quanto la settimana scorsa abbiamo fatto scorpacciata le interviste, quindi questa settimana ci siamo tenuti un po' più leggeri e diamo spazio ai nostri ospiti. Ci saranno Tony Scopelliti, ci sarà Fidelio Cusimano, ci saranno tanti di quegli ospiti che sembrano quasi veri. Sai chi è che non viene? Chi è che non viene? Non viene da tanto Tom Di Petto, io lo odio quel personaggio, veramente non posso neanche sentirlo nominare. Ci sarà con noi ovviamente il grande idiota Michelino, il bambino più cretino della storia della radio. Va bene, direi che abbiamo detto tutto e non possiamo non iniziare questo programma se non con la nostra sigla. 1, 2, 3, 4. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clappio, doccia, piermo, se va, chiamare. 1, 2, 3, 4. Noi siamo i giovani. Ed è sempre un piacere riascoltare la nostra sigla fatta proprio dal Piotta. Che bello. Il Piotta vero, quello in carne e ossa che ci ha fatto la sigla personalizzata per il nostro programma. Va bene, allora mi ero scordato di dire invece che oggi ci sarà la classifica, la consueta classifica delle 10. Ma ve l'anticipo, anzi ve la dirò appena arriva il mio co-conduttore Antonio, perché insomma oggi cercheremo di fare una bella classifica che coinvolga tutti. E poi soprattutto, ecco, è appena arrivato Antonio in studio, lo sentirete, farà un casino ovviamente sedendo. Eccolo qui, e questo era Antonio che è malato. E poi chiaramente ha avuto un grande successo la settimana scorsa, il primo TG più interessante del mondo, ovvero il TG Lercio. Che il TG... Bello quando si è sdoppiato con la mia voce, Non mi sento però... Non preoccuparti, le tue cuffie sono qui, sì, ma puoi prepararti con calma. Il TG Lercio, che è appunto fatto dagli amici di lercio.it, il nostro... un blog che noi consigliamo e che vi invitiamo a vedere e a leggere. E quindi, insomma, c'è stato un grande successo di questo TG e lo risentirete più avanti nel corso della puntata, verso le 7, circa le 7 dopo la pubblicità. Antonio, finito di smontare lo Hai studio. Hai finito di smontare, sì, lo studio? Mi hanno dato questo compito, sì. Mi hanno anche rimproverato prima di entrare i nostri predecessori. Lo sappiamo. Sì. Per un tuo acquisto. Ma anche per un secondo motivo, perché lasciamo la radio sempre in disordine. Eh sì, e questo riguarda tutti e tre. Lasciate un si con. Sono lamentati della vostra sala. Ha detto noi tre. Vabbè, comunque già hai annunciato la classifica. No, non ho ancora annunciato la classifica. Annunceremo più avanti nel corso della puntata. Io direi che già abbiamo frantumato un po' i maroni, quindi spariamoci un pezzo. Già la sigla è andata. Già la sigla è andata. Allora ci spariamo un pezzo, dai. Ci ascoltiamo i mashup con... I mashup è un mashup. Come la scorsa come volta, l'altra volta. Soundtrack. Aspettiamo un bel mashup dei Beatles con Gian Jett, Cypress Hill, i Rage Against the Machine. Quindi insomma state con noi. La musica che preferisci. Panorama. Musica allo stato puro. Questa canzone mi rimanda dei ricordi quasi da sottofondo di Forrest Gump, perché mi trovo a teatro e si conclude un musical con questa canzone e un esaltato due figli davanti a me cantava esattamente così. I love Bad Bo. E poi I love Bad Bo. Bad Bo. Bad Bo. Bad Bo. Bad Bo. Allora, ricordo un po' Morse Du, la ricetta di Tony Scopellini. Neanche lui aveva capito alla fine perché si chiamasse Morse Du. Esatto. Pensava che si prendesse a morsi per mangiarlo. Va salutiamo bene. Anonimo DJ siciliano che ci ha scritto un SMS. Ciao, è quello ciao, che conduce... ha salutato a sì. te, ad Alessandro e a me. Non mi ha cagato. Però è bello perché vedi, Andrea è una persona così superiore ed elevata moralmente che anche se non l'hai salutato è proprio quello che ti saluta. Esatto, esatto. Hai visto? Il programma si chiama proprio... Si chiama Anonimo... Lavata di Facce. Si chiama Mission Impossible. Mission Impossible. Tutti i giorni, se non sbaglio, quasi. Sì, tutti dalle i giorni. 14 dalle, alle 16, dalle 14 alle 16. Quindi ascoltate Anonimo Siciliano, il DJ, il programma si chiama Mission Impossible, sempre qui, su Radio Panorama. Ma ciao Brum, ancora non ti ho salutato. Sì, ora ti saluto anch'io. Ciao Antonio. Che bello, vi siete però salutati. Ora baciatevi, non lo so. Non vi baciate. Ah, ecco, va bene, va bene. Allora, dobbiamo dire un po' di notizie. Settimana intanto piena. Io direi di anticipare la nostra classifica. Oggi ne facciamo due. Oggi ci spariamo due classifiche. Due classifiche molto importanti. Io direi che la prima, la più importante, dato che si aspetta questa cazzo. Oggi c'è ragazzi, questa fumata. Ecco. Questa tra l'altro fumata. Oggi c'è stata la seconda fumata nera. Sì. Ora si aspetta la terza, vediamo se sarà bianca. Magari leggono il Papa mentre siamo in diretta. Esatto, e ci bellissimo, colleghiamo. Sarebbe bellissimo, bello. Sarebbe molto bello e noi vi diremo Cos'è? Perché? Cioè, perché potrebbe svenire. Non si sta fumando. No, è la fumata del Vaticano. Il conclave, sai, dal comignolo della Cappella Sistina. Non preoccuparti. Le 10. Qual è la classifica che le 10 cose che succedono veramente durante il conclave. Quindi non quello che ci racconta la TV. No, quello che succede davvero. Non i 115 cardinali chiusi lì a votare. No. Ma quello che succede davvero. Vabbè, quindi l'abbiamo solo. Se siete curiosi. E poi la prossima, possiamo dire l'altra. L'altra che sono i 10 populisti da tastiera che infestano il web. Tipo quello che ti scrive: io sono per la non violenza. È tutto per la non violenza, è tutto unito, da per fino a violenza. Sì, quindi daremo due belle classifiche. 20 cose. 20 posizioni, 20 esatto. Posizioni. Diciamo così. Allora, settimana. Io attendo troppo il TG Lercio, però. Sì, ma io tra l'altro lo attendo pure perché vedi, c'è un problema. Tu conduci da uno sgabello. Io in una sedia che è un a livello tu sei più basso. Sei più alto. Non si può abbassare tutto. Ora abbassiamo tutto, non si preoccupa. Allora, come dicevamo, settimana piena, a parte il conclave, tanta altra roba. Per esempio, finalmente abbiamo il governo. Ma non mai? È vero. Ma infatti era solo per vedere la tua reazione. Però ti dirò una cosa, probabilmente più tardi ci colleghiamo, neanche tu lo sapevi, con la madre. La madre di chi? Matteo Renzi. Ma come la madre di Matteo Perché Renzi? Perché lui ha detto oggi, ha dichiarato che se si andasse di nuovo alle elezioni lui si candiderebbe come premier. Quindi non esisterebbe più il valore delle primarie. Questa è una notizia che stiamo invece per dare, molto interessante. Se poi la diciamo subito. No, vai, continua. No, mi sono affascinato dalla madre di Matteo Renzi. Ormai tutti vogliono Matteo Renzi. Sì, e quindi anche è giusto sentire il parere della madre, con lei che lo ha generato. Come abbiamo sentito il parere della madre di Berlusconi, esatto, cioè, quindi esatto, dici Renzi, alla fine, ci sta. Oggi avremo la signora Renzi. La signora Renzi. Non so se vuole un sottofondo particolare, magari glielo chiederò nella pubblicità, vediamo un po'. Non lo so, hai visto che ha venduto il camper? Sì, ha venduto il camper. 30.000 euro. Però cosa ha detto? Ha detto qualcosa di... No, la dava in beneficenza il camper. Sì, continuerà a girare. Vabbè, ma a girare forse nei campi in Roma, non lo so. Ma ormai Renzi è il nuovo premio, lo sappiamo tutti. Sì. Ricordatevi di sistemare la radio. Ci manda qualcuno un sms, vabbè. Forse la webcam, l'abbiamo sistemata la webcam. Perfetto. Allora, l'altra notizia a me piace, dai. Questa notizia la diamo, anzi ti leggo proprio. Allora, gli occhi troppo grandi. Noi come ce li abbiamo gli occhi? Bruma, tu come ce li hai? Ma io ce l'ho castani, tu come ce l'hai? Io dicevo come grandezza. Piccoli, grandi, medi. Come ritieni di avere? Normali. Perché? Scusa. Perché? Perché? Sì, tu tranquillo. L'uomo di Neanderthal pare che si sia estinto perché aveva gli occhi troppo grandi. Ah, sì, arriva questa notizia, appunto. Dice, secondo uno studio all'Università di Oxford, pubblicato dalla Presidency of the Royal Society, bello. I Neanderthal, uscendo prima dall'Africa, hanno sviluppato maggiormente l'area del cervello dedicata alla vista per adattarsi alla minore luminosità delle latitudini europee. E invece, nel frattempo, zitto, l'Homo sapiens avrebbe sviluppato maggiormente i lobi frontali, quelli associati appunto ai processi cerebrali più elevati in Africa, prima di diffondersi nel resto del globo. E quindi insomma si sono estinti. Chissà i cinesi, dato che hanno gli occhi sempre più piccoli. Sono i più intelligenti, quindi i cinesi. Se tanto mi dà tanto, insomma. Certo, no? Però è brutto questo modo di Neanderthal. È un po' brutto quello della foto. Va bene, noi non so se senti sottofondo, voglio tornare un po' all'atmosfera estiva. Sai quei bei pezzi estivi che ti fanno venire voglia di saltare sulle spiagge? E allora io ve la dedico a entrambi, Simone Cristiano. Sticchi con Ombrelloni. Sto pensando seriamente a una canzone per l'estate, maledettamente stupida da farsi canticchiare, orecchiabile dal sapore di asciugamano col calor latino con un ritmo sudamericano. Sto pensando a quanti soldi potrei farci veramente, diventasse la canzone dell'estate per la gente. Discoteche di Riccione dentro ai ristoranti, dalle radio nazionali e nei villaggi di vacanze. L'ombrellone te lo ficco nel culo e il gelato te lo spiaccico in faccia. Questa sabbia te la tiro negli occhi e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia. Con la sdraio ti ci spezzo la schiena e ci piscio sulla tua abbronzatura. Ora ingurgita la crema solare prima che ti affoghi in questo schifo di mare. Seriamente di scapparmene in montagna, la mia musica sarà soltanto un asino che raglia nella pace dei sensi. Praticando un po' di yoga scoprirò la vera essenza che si cela in ogni cosa. Ripenso a questo pezzo, ad un balletto da abbinare, quattro passi, due, tre mosse, anche un orso le sa fare. Tutti quanti poi si sentiranno più felici, solo un po' più stronzi ma lontani ormai dai loro uffici. L'ombrellone te lo picco nel culo e il gelato te lo spiaccico in faccia. Questa sabbia te la tiro negli occhi e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia con la sabbia. ascolti la mia canzone per l'estate. Canzone per l'estate. L'ombrellone te lo picco nel culo. L'ombrellone te lo picco nel culo. L'ombrellone te lo picco nel culo. E il gelato te lo spiaccico in faccia. Questa sabbia te la tiro negli occhi. E poi ti prendo a calci lungo la spiaggia. Con la sdraio ti ci spezzo la schiena. E ci piscio sulla tua bronzatura. Canzone per l'estate. Ed ecco qui, ci siamo ascoltati un bel pezzo estivo. Spero che l'ombrellone tu l'abbia sentito bene. L'ho Andrea. Sentito tutto. Ma l'ho credo sentito che l'abbia sentito tutto. Tutto. Però sembri contento. Ovviamente sono contentissimo. Ma diamo questa notizia che stavo intanto leggendo. Salutiamo Giorgio. Salutiamo Giorgio che è arrivato, è dietro di noi ed è pronto per la prossima notizia. Sì, proprio ovviamente. Perché è in tema. È in tema. Sì. Cos'è successo? Noi oggi ci siamo preparati. Chi ci guarda in webcam già vede, ci sono oggetti strani qui dentro la radio. Perché vogliamo girare anche noi. Ebbene sì. Il tormentone dell'anno, Harlem Shake. Esatto. Questa stronzata. Ma ne abbiamo parlato già la settimana vogliamo scorsa. Farlo, vogliamo farlo, sì. Abbiamo deciso che ormai dobbiamo farlo anche noi. L'hanno quindi tutti, possiamo dire che al rientro dalla pubblicità delle 19 dovrebbe esserci già il video in bacheca. Sì, già il video, il nostro video in bacheca. Ma cosa è successo? Leggiamo questa notizia. Harlem Shake sul luogo di lavoro. Tutti licenziati. Tutti. Nessuno ci scriverà. Può essere che capiti anche a noi. Sì, certo, ovviamente. Tra l'altro è in tema, senti qui. L'ultima moda di internet. Chiudi a chiave, Alessandro. Indubbiamente l'Harlem Shake, dove ognuno cerca di replicare il format originale, in cui uno inizia a ballare in modo sconclusionato e poi, sul ritornello della canzone, si scatena chiunque, ciascuno col vestiario e passi personalizzati e surreali. Sono circa 4.000 al giorno i filmati in cui qualche gruppo propone la sua interpretazione dell'Harlem Shake, inclusi cioè, anche. Ti rendi conto che ogni giorno nel sì, mondo 4.000 per una media di 15-20 persone a gruppo, cioè ci sono almeno 80.000 persone, esatto, che fanno cagate. Esatto, anche i giocatori della Juventus e del Manchester City, la squadra di basket dei Dallas anche Maverick, del uno Verona, squadrone dell'esercito norvegese e molti altri. Sì, quello è lo squadrone dell'esercito, è bellissimo. Sì, sì, no, quello non l'ho visto. Come sì, fatto? È uno dei più famosi. Tra l'altro non so come hanno fatto. Sì, ho capito. Non so come hanno fatto, sinceramente, a fare una cosa del genere nell'esercito. Beh, cioè, vuol dire che era in libera uscita, compagno. Ma a volte le cose hanno conseguenze inaspettate, continua la notizia. Qualche giorno fa 15 minatori australiani sono stati licenziati dopo aver postato il video con la direzione che li ha accusati di aver violato le procedure di sicurezza. I minatori, sì, non è quello no, che dici non tu. Quel tipo di minatore sotto. Non molto meglio, andate in Italia, due dipendenti di una radio, non diciamo il nome della radio, di Roma, che sono stati licenziati dopo che il direttore ha scoperto il video al rientro di un viaggio di lavoro e ha deciso di licenziare in tronco i due ideatori perché lesivo dell'immagine della radio. Ma cos'è la Radio Vaticano? Non lo scusate, so che ora voglio dire, caro direttore, tu che ci stai ascoltando, noi già siamo lesivi dell'immagine della radio in quanto conduciamo, quindi sì, infatti, già siamo già la lesività fatta la nostra fatta presenza programma. Già lede, sì, esatto. Già lede. Ma noi lederemo ancora di più. Che bello, già lede mi è piaciuto lede, da morire. Già lede. È bellissimo. Senti, lede. Ma oggi il pubblico l'abbiamo sentito? Non lo so, no. Ma lo sentiremo presto, ne sono quasi sicuro. Andiamo avanti con le notizie sul papato, diamo subito la classifica. Iniziamo la classifica e poi è in tema con la prossima canzone. La classifica delle 10 cose che succedono veramente durante il conclave. Questo è il numero 10, iniziamo dalla fine, chiaramente, esatto. La classifica si elegge subito il Papa. E infatti non accade mai, ore 8 del primo giorno di conclave. Oh, ascoltatemi, tiriamo fuori un nome in fretta che ci togliamo stamenata dalle scatole. Alle 8.03 un cardinale è già diventato Papa, comincia il suo personalissimo addio al cardinalato. Ecco perché dura tanto il conclave, perché poi c'è l'addio al cardinalato. Sì, ovviamente, là dentro chissà che succede. È già eletto il Papa. Ma andiamo alla posizione numero 9, foto stile Crystal Castles. Ma che cosa sono i Crystal Castles? Ma tu non sei aggiornato. Perché prima tu lo che sai? Prima che cominci la festa, c'è già da sbrigare qualche altra noia burocratica. Storie di timbri, di sigilli cerati, di foto ufficiali. C'è però i cardinali non li trattieni facilmente, quelli che hanno già la testa alla festa. E quelli hanno già la festa alla festa. Non puoi farmi confondermi mentre leggo, però. Eccoli lì. La festa, la festa, la festa. dovevi lanciarla subito dopo la canzone. Sì, subito dopo dovevi lanciare la canzone subito dopo la festa. Oggi è il giorno dello scambio. Schiaccia il reset. Lo chiamavano Andrea Crossingover. Ma perché tu mi parli solo? Basta dire l'ordine giusto delle cose, non cambiarlo. Cioè. Ma se me lo dici mentre leggo. Vabbè, io non parlo più. Bravo. Eccoli lì allora con il loro smartphone e con le loro digitali a farsi le classiche foto dementi nei momenti morti. Proprio come tutti noi. Poi arriva Base. Chi è? Vai. Baselios Clemis Fotunkal. Che sarebbe Fotunk. Ma perché lo dice alla cinese? Perché Fotunkal, arcivescovo maggiore di Trivandum del Sirio Malankares. Ma che, dove minchia è questo? Che è il giovane gruppo. Oggi comunque c'è un linguaggio. Che è il giovane del gruppo che attacca a fare la pose dei Crystal Castle e parte l'emulazione. Il bello, sai qual è di questo nono posto? Che non ci abbiamo capito neanche da casa. Hanno capito. Insomma, nulla. Foto da bimbo minchia dei pari. Un po' mortizzo. Un po' mortizzo. Andiamo alla posizione numero 8. Andiamo alla posizione numero 8. Apre l'asta del fantacalcio. Tradizione moderna introdotta a partire dal conclave del 63 su pressione delle diocesi italiane. Erano gli anni della grande Inter di Moratti, Angelo, e le squadre iscritte al fantacalcio della Chiesa Cattolica erano poche, pare soltanto 6. Si racconta di spese folli del cardinal Confalonieri per allestire uno squadrone nel 78 con Rivera e Giordano, stelle assolute di tutto il campionato. Ma prima di lanciare la prossima canzone voglio rileggervi Clemis Tonfun Baselius Clemis Tonfun Cal, arcivescovo maggiore di Trivandum del Sirio Malankares. Ma sarà il nuovo papa, secondo me. No, il nuovo papa sarà sicuramente un papa nero. Tu dici? Sicuro. Allora ci ascoltiamo in pittura fresca. Italia, avere un papà nero, nome barbero, un papà nero. sexy. Move, you want to move, but you're hogging her, you're guarding her. She wants to move, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. Beat it, mister. Look at your girl, she loves it. I can see it in her eyes. She. Her. Beat it! Mister, look at your girl. Damn. She loves it. She loves it. I can see it in her eyes. She hope you last forever. Hey! Come on! Mister, look at your girl. Look at her. She loves it. She wants it. I can see it in her eyes. She ed eccoci tornati, sempre in diretta qui dagli studi di Radio Panorama, Termini Imerese, l'onda in onda alle 18.35. Per chi ci ascolta di notte sono le... Luna. Mezzanotte e 35. Luna. Mezzanotte e 35. Io penso che sia luna. Sono appena arrivato sul vostro pianeta. È luna. Mezzanotte e 35. Perché dovrebbe diventare luna? Vedi che non c'è un motivo. Tu hai detto la prima cosa che ti è venuta. Sì. Giorgio, prima non hai voluto salutare. Non hai salutato. Saluta l'onda in onda. Ciao a tutti. Allegria. Anche lo stadio si fa sentire, la curva nord, incredibile. Giorgio, facciamo risentire. Saluta Giorgio. Harry, ciao. Che poi è Harry, virgola, ciao. Saluta Harry. Il nome e cognome. Sì. Harry, ciao. Harry, ciao. È de Roma, Harry, ciao. Allora, dopo queste cagate, parliamo di notizie importanti. Non abbiamo parlato di quella lì, per esempio. Quale? Quella importante, quella del pela patate. Ah, sì, è la notizia più importante della oggi. Giornata. È riuscito a superare anche la fumata che si attende del Papa. Ed è una notizia che veramente fa riflettere tutta la comunità. La comunità europea, scientifica e politica soprattutto, sì, che si sta interrogando sul fatto. Anche l'Unione Europea ha preso una posizione in merito. Noi speriamo che si risolva la situazione, perché sì, è una crisi veramente, insomma, importante. Parliamo di cose serie. Sì, no, parliamo della notizia, più che altro perché abbiamo più calma, perché è una cosa importante. Sì, una cosa importantissima. Aggravati. E soprattutto, senti soprattutto la gravità. Bisogna veramente far prendere coscienza alle persone di questo fatto gravissimo. Guarda anche il regista, che c'è qualcosa di più triste. Molto, molto grave. Aspetta un secondo. Dovremmo avere qualcosa di più triste, dici? Sì. No, questo è il mistero. È un po' misterioso, ma va bene. Vabbè, perché è un mistero, cioè. Si taglia il pene col pela patate e fa causa all'azienda. E ovviamente i nomi li prendo sempre io. Edgardo Touché. Touché. Vuol dire toccato, tipo teccato. Ma sai quando dice Touché? Originario di Porto Rico, ha perso il pene tagliato di netto mentre lavorava con una macchina pela patate. Touché o Touché, non lo so, che non parla e non scrive in inglese. Non parla e non scrive, virgola. Ha denunciato l'azienda interinale. Che c'entra che non parlano scrive in inglese? Non si sa. Ha denunciato l'azienda interinale, la Staffing Spartan. No, non è una cosa da tempo. Perché hanno detto che non parla e non scrive in inglese? Non lo so. Che ce ne può fregare? Ha perso il pene, non parla, non scrive, la tragedia si aggrava. Interinale di Staffing Spartan, che gli aveva trovato un lavoro a tempo perso. Un lavoro a tempo presso un impianto a tempo perso. A tempo perso. Scusateci, cioè, oggi è tutto in diretta. Ma che fa lavori oggi? Ma a tempo perso. Io mi sento male, ho le lacrime. Non vedo l'ora di risentire la replica per questo minuto. Allora, ha denunciato l'azienda interinale Staffing Spartan, che gli aveva trovato un lavoro a tempo presso un impianto di produzione vicino a Orlando in Florida. Mi togli sto sottofondo e metti Sant'Anna. Metti un orgasmo, per esempio. Touché afferma di non aver ricevuto nessun orientamento o formazione per lavorare con la macchina pela patate, macchina che utilizza una lama rotante molto tagliente. Immaginiamo sia molto tagliente, anche questo molto tagliente è impressionante come specificazione. Lama che ha tagliato di netto il pene. Touché. Il penne Touché. Perché Touché è il nome del penne. Touché ha denunciato l'azienda per chiedere un risarcimento danni. Blitz quotidiano. Domani vi regaliamo tante virgole e soprattutto spiegateci che cosa ce ne frega che Touché non parla e non scrive in inglese. Non hai capito, ce lo spiegherò alla fine, perché ha tagliato di netto il penne Touché. Cioè è il nome del penne, capito? Touché, per questo non scrive e non parla in inglese. Povero Touché, siamo tutti con te. Ok, che bella però. Bella, bella. Bella. Abbiamo un ospite. Sì. Presentalo. Abbiamo un ospite. Presentalo tu. Allora, lui, come dire, è il baluardo del comunismo, non solo italiano, ma su scala internazionale. Io piano piano sfumerei Santana, perché sappiamo bene lui con quale pezzo riesce soltanto a parlare. Ecco, già parte il sottofondo, l'internazionale comunista. Non ci viene a trovare da circa un mese. L'abbiamo lasciato l'ultima volta in quel di Sanremo, insieme all'Armata Rossa. Quindi è esattamente un mese, perché Sanremo è cominciato il 12 febbraio dello scorso mese, che era febbraio. Ecco qui, che direttamente da Regalcioffoli, in provincia di Rocca Palumba, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi l'ultimo vero baluardo comunista, Fidelio Cusimano. Ciao Fidelio. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori dell'Onda in Onda. Lei ha mai usato un pela patate? Sì, noi del collettivo Giancarlo Mattello, lei dimentica sempre di ovviamente nominare il nostro collettivo universitario giovanile Giancarlo Mattello, che pare che abbia delle origini grilline. Ah, e infatti le stavo per chiedere proprio questo, il fatto che utilizziamo sempre il pela patate, noi. Sempre? Sempre. Nessuno mai si è tagliato? Nessuno, perché mi riascolto da solo, non lo capisco. Sento anche la mia voce. Non dobbiamo preoccuparci della nostra del nostro audio che torna, perché dovrebbe essere perché un segnale tutto torna, dal futuro. Tutto torna sempre. Appunto, lei diceva un collettivo universitario, quindi composto, sì, da menti usiamo giovani. Pela patate. Sì, questo l'ho capito, però dico siete menti giovani, quindi pensa menti che ci giovani sia... menti giovani. Ah, menti. Lei pensa che ci sia qualche affinità con i grillini? Se sì, quale? A parte, allora, l'età. Guardi, noi chiaramente abbiamo iniziato col collettivo Giancarlo Mattello a dire anche noi uno vale uno. Lo dicevamo ai tempi di Lenin. Di Lenin. Ora lo ripeto. Aumentano l'N. Anche Lenin. Lo ripeto. Perché ride? Mi scusi. Non sto ridendo, era un colpo di tosse. Ah, assopito. Pensavo. Sopito. E poi abbiamo detto no, comanda soltanto Giancarlo Mattello. Quindi voi volevate fare qualcosa, diciamo un governo di larghe intese con Grillo? No, noi volevamo fare un governo di larghe intese con Stalin. L'abbiamo proposto, Lenin e Stalin si sono parlati, hanno detto ma che facciamo, non lo so, facciamo il collettivo Giancarlo Mattello è andato lì, poi è morto, sappiamo tutti la storia. Sì, insomma, sì, tu, chi noi... non l'ha studiata la storia di Mattello? Cosa facciamo in realtà nel nostro collettivo? Cineforum. Giovanili, una cosa che nessuno ha pensato mai, l'abbiamo mai inventato noi, Cineforum Giovanili Sociali Solidali a Rocca Palumba, grandissimo comune della immenso dell'isola Sicula, diciamo che ormai stiamo conquistando, manca solo la costa e diciamo definito nel come senso regione. Di nave o proprio di Regione Sicilia. Ah, ok. Abbiamo la preso costa è la Regione Sicilia, quindi l'entroterra vale quando, la costa cosa intendiamo? Quanti metri dal mare? La battigia è quello che rimane dell'Italia, della nostra insomma, abbiamo preso tutto. Cioè è il bordo della pizza, diciamo. Esatto. A me piace il bordo della pizza. No, infatti noi del collettivo Giancarlo Mattello ci stiamo battendo per l'abolizione del cornicione. Del cornicione. Senza il cornicione della pizza. Senza il cornicione. Pensi, ma come, c'è una pizzeria a Palermo dove lo riempiono il cornicione? Ma guardi, non importa. Vorrei parlare del Cineforum, del nostro film che trasmetteremo questa settimana, oggi in realtà, alla nostra arena. Arena di Regalcioffoli. Perché è molto grande, quindi è un'arena. Non mi imiti, scusi, per favore. Un'arena di Regalcioffoli. Un bellissimo film neorealista, chiaramente in bianco e nero. Ci spari il titolo. Ma guardi, il titolo non è importante, no, di questo film, non è importante. Perché in realtà quello che parla sono le immagini. Sì, ho capito, ma se uno non è entrato ancora al cinema, come fa a sapere se le immagini colpiscono? Allora, il nostro Cineforum di oggi è speciale, nel senso che voi venite, è gratuito intanto, vogliamo dirlo. Quindi... Collettivo Giancarlo Mattello per la prima volta fa l'ingresso gratuito al suo Cineforum. Ma è giusto, sai, il comunismo. Sì. Con l'impegno chiaramente di commentare il film, le impressioni del regista, soprattutto il regista di cui non devo nemmeno il nome questa volta. Ah, proprio è tutto posso segreto. Posso dirvi parte della trama. È un bellissimo albero con tanti buchi e tanti scoiattolini che si infilano in un buco e escono dall'altro. Metafora bellissima, ma c'è ancora il colpo di scena. Ma che è bella perché l'ha capita solo lei? O è perché bella perché poi ne parleremo durante il cineforum, ma il colpo di scena finale è ancora, ancora più bello. Un uomo sull'albero con un amo che punta lo scoiattolino, che inserisce una ghianda nell'amo e fa andare l'uomo via. Questa è una metafora favolosa, bellissima, del grande regista anonimo. Non possiamo dire il nostro, il nome del regista. Vedete, venite questa sera. Noi stiamo dando questi piccoli incentivi. Noi diamo notizie a metà, in modo tale che la gente venga al nostro cineforum. Questo film, chiaramente, della durata brevissima di 3 ore e mezza. Di un albero con degli scoiattoli che entrano dai buchi. Perché c'è tutta l'interazione sociale degli scoiattoli. Ah, ecco, che si guardano, si guardano, squittiscono, scodinzolano. Quando poi vedono che l'uomo è sull'albero che porge l'amo. Ma non loro, dice l'uomo? L'uomo. Cosa fanno loro? Prendono la ghianda, che non si sa dove l'hanno presa, visto che è un albero. Forse dall'era glaciale. Non fa ghianda, dall'era glaciale. Non lo so, non c'era nel tempo del film. No, intendevo il film. Esatto. Hanno preso questa ghianda e l'hanno messa nell'amo. Metafora bellissima, significa solidarietà anche col nemico. È veramente una metafora stupenda e invito a commentare tutti voi con questo film stupendo. Ultima chiosa di questa del nostro collettivo Giancarlo Mattello. Noi siamo per il Papa Nero, anche noi vogliamo il Papa Nero. Perfetto, è importante sapere anche il commento del pubblico, probabile, diciamo il papabile pubblico, se mi passa il termine. Giorgio, ad esempio, tu pensi che potresti andare a vedere oggi questo film? Ho già prenotato tutta la prima fila per me e gli amici. Ma prenotato però è gratuito, quindi te l'hanno fatto prenotare? No, noi l'abbiamo fatto prenotare perché chiaramente Giorgio è un grandissimo estimatore del movimento. Ah, io non sapevo. Del movimento Giancarlo Mattello. Non me l'hai mai detto. Quindi non potevamo dirlo per non fare propaganda troppo esplicita in questa radio, chiaramente comunista, ma con delle inflessioni un pochettino di dialettali di destra. Okay. E quindi abbiamo riservato a Giorgio tutta la prima fila, quindi chi vuole dalla seconda fila può venire a vedere il film. Andate presto perché... Mi raccomando, il commento sugli scoiattolini. Esatto, c'è un blog poi su cui commentare? Sì, chiaramente giancarlomantello.comunistanchio.it. Io ho sentito Giancarlo Mantello, ma mi va bene così perché ti vogliamo bene così, carissimo Fidelio. Ti salutiamo e adesso ci ascoltiamo un pezzo. Loro il prossimo 6 luglio, fallo partire regia, il prossimo 6 luglio saranno a Roma allo Stadio Olimpico e noi adesso ce li spariamo, i grandissimi Muse con Starlight. Thinking about you, thought it'd be so deep, thought it'd be forever. ci siamo ascoltati per benino i Muse con per benino, per sì, per benino. A me piaceva il film di Fidelio. È bello, perché è poi bello. Non c'è il titolo, quindi non c'è uno il titolo, va non c'è il regista. Lui ha sempre dato titoli il regista. Sì. Però sì. Questa volta ci ha lasciato così nel dubbio. Ma ha invitato un pochettino ad andarlo a vedere. Sì, è comunque invitante, anche perché soltanto arrivare lì per scoprire qual è il titolo del film. Cioè, perché poi va bene la tematica. Gli scoiattoli, sì, l'uomo. La metafora dell'uomo che cerca il suo motivo dell'esistenza su questa terra. E ci fa segno di mungere le vacche il regista. Allora, sì, andiamo abbiamo poco con la... tempo prima della pubblicità e poi ovviamente il nostro TG Lercio. Ok. Il loro, il posso loro leggere questa notizia? Sì, sì. Arrestata ragazza, aveva una pistola nella vagina e della droga nell'ano. Aveva nascosto... Io avevo fatto al contrario. Aspetta, un attimo. Chiariamo un attimo... Aspetta, ma chiariamo anche il io avrei fatto al contrario. Se fossi stata. Salutiamo sempre i bambini che ci ascoltano alle 18:51. Ciao bimbi. Vabbè, basta che avresti. Michelino, saluta i bambini così capiscono che è un programma anche per piccoli. Che ne pensi della ragazza con la pistola nella vagina? Si è inserito col microfono poco fa mentre c'era la canzone. E cantava i Muse. Sì, non so cosa ne pensi. Faceva dubbi. Ti devo chiamare il bambino, vuoi sapere cosa. Michelino, che ne pensi della ragazza che è arrestata con una pistola nella vagina e della droga nell'ano? È meglio, bello? Ma forse era meglio fare al contrario? Non lo sa. Non lo sa il bambino, non lo sa, è piccolo. Che comunque, è piccolo. Michelino, saluta tutti i bimbi all'ascolto, dai. Ha detto una, credo una bestemmia in giapponese. Sono... Ciambuci in bici. Ciambuci in bici vuol dire andiamo in giro in bici. Sì, lo so. Solo un idiota. Aveva nascosto nella vagina una pistola calibro 22 carica e delle bustine di metanfetamine nell'ano. Christy Alba Harris era stata arrestata ad un posto di blocco ad Ada, in Oklahoma, dopo che la polizia aveva trovato nella sua auto della droga e delle munizioni. Una volta a distretto locale, enormi sono stati la sorpresa e lo shock dei poliziotti. La donna aveva chiesto di andare in bagno e si era rifiutata di cambiarsi e indossare la classica divisa arancione che si usa nei carceri statunitensi. La polizia l'ha perquisita e ha trovato la pistola e la droga. Ora io vorrei dire solo una cosa. Prima di tutto specifichiamo che ad Antonio capitano notizie in cui i luoghi sono semplici. In un posto di blocco dove? Ad Ada. Facile, a me capitano e trovi la Vladi ad Ada. Ma era lì, tutti i posti dell'Islanda. A me capitano i posti dell'Islanda, i nomi senza senso. Quello di prima, il cardinale Bergberg. Esatto, adesso la diremo, continueremo con la classifica. Io direi di fare una precisazione. Intanto che questo programma oggi andrà in onda senza le consuete interviste. Ricordiamo le consuete interviste ai gruppi pop e indie rock. Dato che la settimana scorsa abbiamo fatto una grossa scorpacciata, ma riprenderanno dalla prossima settimana con noi gli artisti a farsi intervistare. Le notizie che leggiamo sono tutte vere, tranne quelle, soprattutto anzi quelle del TG Lercio. No, quelle sono le più vere. Le più vere di tutte, che verrà alle 19. Quindi non cambiate, non cambiate stazione. Vi invito a visitare il blog lercio.it per sentire delle altre che non sono qui in radio da noi. E poi vorrei dire solamente una cosa: che oggi purtroppo abbiamo appreso la notizia della morte di Teresa Mattei. Alla quale facciamo un grosso applauso. Era l'ultima delle madri costituenti, esatto. Diciamo della Repubblica Italiana. Partecipò all'Assemblea Costituente, è stata onorevole e una degli ultimi tre padri costituenti rimasti in vita, l'ultima donna, degli ultimi tre. Ovviamente in altri due c'è anche Andreotti, lì non muore mai, e Emilio Colombo sono gli ultimi due rimasti ormai. Quello non muore mai, Highlander, Andreotti. E tra l'altro lei fu la donna che propose di utilizzare la mimosa, il simbolo della mimosa, perché doveva essere marzo. Un fiore di campo molto semplice da reperire, fu lei a proporre la mimosa. Esatto. È comunque una grande donna, rimpianta a destra, a sinistra, al centro. E ricordiamo, anzi, visto che è passata da poco e noi non eravamo in onda il giorno per parlarne, ma che l'8 marzo non si celebra nessuna strage di operaie in una miniera, quello che è, ma era una festa già istituita e poi il mito della fabbrica è stato inventato dopo, sbufalato chiaramente da attivissimo. Chi però poteva sbufalare questa cosa? Tutti ne sono convinti. 1917, se non sbaglio. Forse anche me. Vabbè, quello che 1908, insomma. Va bene. Allora, dovremmo passare con la classifica o andiamo subito alla canzone, cara regia? Andiamo alla canzone perché poi abbiamo la pubblicità. E rimanete perché dopo la pubblicità c'è il TG Lercio. Adesso ci ascoltiamo i The Lumineers con Ho Hey. Hey! Hey! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Sleeping in my bed, sleeping in my bed. the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you. You belong to me, my sweetheart. I belong to you. You belong to me, my Buonasera e benvenuti alla nuova edizione settimanale del TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Andiamo subito ai titoli. Rapina macchinetta per fototessere, ladro maldestro immortalato in quattro posizioni diverse. Giovane coppia mette in cantiere un figlio, comitiva di anziani assiste divertita ai lavori. Malinteso durante un matrimonio tra elettori del Movimento 5 Stelle, novelli sposi allontanano il fotografo. Governabilità. Piuttosto che tornare al voto con questa legge elettorale, il Presidente della Repubblica sarebbe intenzionato a restituire il paese ai Savoia. Secondo i consulenti del Quirinale, basterà tirare fuori dagli archivi le carte che provano i brogli nel referendum del 46. Vittorio Emanuele ha dichiarato che questa, per i Savoia, è la notizia più bella dal giorno in cui Garibaldi è stato impallinato sull'Aspromonte. Orge. Gli esperti consigliano meglio tenere i calzini. Giappone. Sarà giustiziato domani l'inventore del karaoke, un caso delicato che ha diviso l'opinione pubblica nipponica. Metà della popolazione si dichiarava favorevole alla pena di morte, mentre l'altra metà avrebbe voluto lasciare libero l'inventore del karaoke con la sola restrizione di non allontanarsi dalla centrale di Fukushima. In Giappone la pena di morte non veniva usata da 114 anni, quando un samurai al servizio dell'imperatore venne giustiziato perché aveva scordato di mettere la matita nera attorno agli occhi. Paperopoli. Gastone arrestato per sfruttamento della prostituzione. Russia. Panico allo zoo. Bimba aggredita da un criceto. È successo a San Pietroburgo. Una bambina di 5 anni è stata azzannata al dito indice da un criceto. La bestia non aveva nessuna intenzione di mollare la presa, ha dichiarato il capo della sicurezza. I miei uomini sono dovuti entrare nella gabbia per freddare il criceto con due colpi di fucile. Cosmonauta russo stabilisce nuovo record di permanenza nello spazio senza stipendio. La Monsanto ha pagato 36 milioni di dollari per il DNA di Ben Affleck allo scopo di creare un super pomodoro. L'azienda è convinta che con il nuovo prodotto conquisterà il 100% delle consumatrici tra 18 e 65 anni. Donna partorisce a bordo del volo Londra-Stoccolma e scopre cos'è il supplemento neonati di Ryanair. Biancaneve ottiene il divorzio dal principe azzurro alla fine di una lunga battaglia legale. La voce narrante aveva assicurato che avremmo vissuto felici e contenti, ha dichiarato il principe uscendo dal tribunale. Invece dovrò pagare gli alimenti a lei e a quei 7 guardoni. Joseph Ratzinger è stato eletto all'unanimità presidente del sindacato Papi in pensione. I dinosauri erano cattolici, lo ha scoperto il vescovo di Bratislava, Erich von Christ. Secondo le ricerche del teologo tedesco, anche se Gesù non era ancora nato, la teoria che i dinosauri lo pregassero a lungo tutti i giorni è l'unica in grado di spiegare la progressiva atrofizzazione degli arti anteriori nei T-Rex. Uomo muore mentre è al telefono, la sua anima finisce dentro una scheda SIM. Sconvolta la moglie, che ha dichiarato di non sentirsi ancora pronta a sentire al telefono la voce del defunto marito, almeno finché non avrà cambiato piano tariffario. Allora ci vediamo la prossima settimana, sempre con il TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Arrivederci. Nunzio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Fumata bianca in diretta. Indie rock. Indie rock. Ma tra l'altro nei siti ancora non c'è nulla. Nei siti non su c'è, Twitter. C'è su Twitter, quindi ma l'abbiamo un televisore, vai su Rai TV, vai da qualche parte. È bianca. Perché potrebbe essere bianca. Noi annunciamo quello che leggiamo su Twitter, lo scrivono tutti, lo scrivono gli spagnoli, gli inglesi, tutti stanno scrivendo fumata bianca. Quindi i giornali ancora non sono aggiornati, almeno Repubblica. Ma io ringrazio la mia ragazza Stefania che ce l'ha detto. Pazzesco, è ancora qui in attesa. Twitter, come che non l'hanno aggiornato? Twitter già aggiornato, perché la gente in piazza aggiorna in diretta. Cambiare la roba da fumare. Sì, qualcuno scrive, hanno deciso di cambiare la roba da fumare perché c'è la fumata bianca. Quindi attenzione, si è fatto il papa mentre noi eravamo in diretta, mentre c'era in diretta il TG Lercio. Noi capito, c'era il TG Lercio e noi giravamo l'Harlem Shake. Che ora caricheremo. Un papa modernissimo. Ora vogliamo il ora primo vogliamo... tweet del papa. No, ora vogliamo il papa in radio a fare l'Harlem Shake vestito di bianco con noi. Sì. Insomma, fumata bianca, bellissima. Chi sarà? Chi sarà? Ora vediamo. Ma scusa, è in serata quindi ora che esce, ovviamente. Sì, ora sì. La chiesa è il nuovo papa. Eccola qui. Quindi alla terza. Quindi sì, ancora sì. Prima di Ratzinger c'erano venute 4 di scrutini. Pazzesco. Esatto. Grandissimo. Chi è in diretta con noi, ovviamente, non si ascolterà più perché stacca. Per vedersi il DG. Restate con noi. Tanto il papa lo fanno stasera. Esce stasera. Sì, almeno passerà tempo che lo vestono. Va a pregare nella camera. Almeno una mezz'ora. Quindi state ancora con noi. Ma chi ci ascolta in replica si diverte come un padre, perché già sa chi è il papa e noi urliamo. Quindi la fumata bianca è stata intorno alle 19:07. Sì. Pazzesco. Quindi al terzo scrutinio. Sei contento, Bruma? Sì, da morire. Sì, parlano con Giorgio. Anch'io l'ho voluta pronunciare in diretta. E io voglio leggere questa cosa. Blanca Porfin, era ora de che haga bendedar della pallisa. Otro chorizo alla lista. Ma non so che caso voglio vogliamo dire. Vogliamo vedere cosa è successo a questo conclave. Stavamo dicendo proprio le posizioni. Al settimo posto. Le posizioni, no, delle 10 cose che succedono veramente durante il conclave. Avevamo al decimo posto. Si elegge subito il papa. E mi sa che la decima posizione, quella che era data per sfavorita, alla fine è stata quella che è andata per la meglio. Ma al nono posto invece avevamo Foto Stile Crystal Castles, all'ottavo posto Apre l'asta del Fanta Calcio, al settimo posto Si guardano i lavori in corso di restauro della Cappella Sistina. Lavoraccio a cui si dedicano i più anziani, mentre gli altri sono già in coda per il loro free drink. Quell'ombra io non l'avrei fatta così, io ce l'avevo detto a quella signorina, mica se fanno così le ombre. È l'equivalente culturale sacra degli anziani che guardano i lavori in corso. E beh, in effetti sono papi anziani, sì, papi anziani, cardinali anziani. Stavo pensando, scusa, vado un attimo leggermente off topic, che io ho un destino, non posso vedere un papa nuovo, perché Ratzinger ero a girare come comparsa nel film di Bellocchio, il regista dei matrimoni, in spiaggia Cefalù. Ora sono in radio a dire vaccate, quindi in un modo o nell'altro io non lo vedo. Beh, spera di non essere in piazza San Pietro la prossima volta, magari non lo leggono più. Esatto, non ci vado perché non lo leggono, perché sono presente. Sesto posto, partitoni alla Wii. Via tutti gli scranni, si piazzano i divani davanti a uno schermo gigante e iniziano gli sfidoni. Vorrei far notare che c'è scritto scrani, io ho letto scranni. Io lo stavo scranni per dire, perché è l'emozione del papa gare appena letto. Automobilistiche, partite di tennis e lotta son di lamate. Di lamate? Di Catan. Ah, lamate, la lama. Oggi la lama sta andando... Sì, anche andando il lama, il lama va un po' alla grande. Fai giocare anche me, mettiti qui a fianco a guardare che giochiamo insieme. Tentamanzi ci prova sempre. Qualcuno su Facebook invece non ci sta, è il nuovo papa nuovo, va bene. Finta fumata nera, una mi sa che ce ne siamo bevute un po'. Una falsa fumata nera per depistare il mondo intero e allungare il conclave. L'avevamo detto. Che no, è una figata, diciamolo. E così cominciamo a eliminare un po' di bicchieri vuoti. Oppure i dossier, come diceva Croce, i dossier. La cosa bella è andare su Facebook nella home page e trovare una mia amica che scrive fumata bianca e quello sopra, una giornata di merda. Entrambi con lo stesso numero di punti esclamativi, che bello. Andiamo subito alla posizione numero 4, spariamoci questa classifica velocissima. Elezioni di mister abito talare bagnato. In principio fu lotta di gavettoni, poi pare ci abbiano preso gusto. Terzo posto il karaoke, c'è Fiorello con la sua famosa giacca gialla. Ed molto era anche lunga, un po' panzone, un po' panzone e anche un po' codino ancora. Quale occasione migliore del conclave per sfruttare le doti canore di una vita di canti sacri in maniera più divertente? Di solito è il cardinale Sodano a mettere il cappotto giallo di Fiorello e a passare il microfono a turno a tutti gli invitati. Si va sempre a finire sui grandi classici, tutti abbracciati, un po' stanchi ma molto felici a cantare a squarciagola. E poi ci troveremo come salvere whisky a Roxy. Io però lo vedo Sodano a cantare. Sì, cantare nella parte di Fiorello. Sì, sì, sì, sì, magari sarà lui. Te lo sai, il nuovo papa Sodano. Sì. Sai, quelli erano impapabili. Sodano, un brasileiro e un americano. Vedremo, vedremo. Restate con noi in diretta. Ovviamente seguiremo anche le elezioni. Cioè, ora vediamo quando si affaccerà dalla finestra. Non mi ricordo quanto tempo passa. Andiamo subito invece al secondo posto, la spaghettata di mezzanotte. Con la mezzanotte scatta la fame, feroce e sorda, come in ogni festa che si rispetti. Non potendo uscire, l'opzione è solo una. Spaghettata, il fuoco c'è e così ci facciamo un'altra fumata nera di depistaggio, gli spaghetti li si recupera e poi si fa in 10 minuti, aglio, olio e peperoncino, piace a tutti e zero sbatti e fa fondo. E quindi mi sa che anche questa è una delle possibili papabili versioni di come si è andata veramente durante il conclave. Non dato gli è piaciuta che la spaghettata. La terza fumata è stata quella bianca. Posizione numero 1, rullo di tamburi, scatta il gioco della bottiglia. Dopo la spaghettata ormai il clima è di festa piena, non si capisce più nulla, c'è un casino allucinante e Paraviglia scatta il gioco della bottiglia. Come cantavano gli Eluli Storie Tese in Brufolazzi, tapparella giù in tapparella. Sì, quello che è successo nel conclave rimane nel conclave, si torna alla vita di tutti i giorni tra lezioni morali e inutili anelli d'oro. E questa era la classifica delle 10 cose che succedono veramente durante il conclave. Conclave. Ma restate con noi, ovviamente in diretta, per saperne di più sul nuovo papa. Noi abbiamo mandato Papa Nero poc'anzi come canzone, quindi tu immagini veramente un papa nero. Ora vediamo, perché la fumata è bianca o papa io, nero. Io vorrei essere eletto il nuovo Moretti a questo punto, sì, dato che ha previsto tutto. Tutto, tuo fratello ha detto, ha previsto quelli del PDL a protestare al tribunale alla fine di Milano. Del Caimano, ha previsto, esatto, in abemus papam le divisioni, esatto, divisioni del papa. Ha detto che con questi dirigenti il PD non vincerà mai. E visto, infatti non ha vinto. E dice qualcuno. Però appunto, diciamo che quella era più facile. Sì, quella era più facile. Vabbè, allora ci spariamo dice un qualcuno, pezzo. Se mi dai i numeri del lotto, ma il gioco. Ovviamente il pezzo che stiamo per passare lo dedichiamo al nuovo papa, che ancora non sappiamo chi è. Ci ascoltiamo Mac Hammer con You Can't Touch This. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me when I'm mind too right. Can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look in my eyes, man. Can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go. touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me. Ed eccoci tornati in diretta, qui l'atmosfera in radio, fai sentire ancora un'altra volta il pubblico, vai Brummo! Yeah! Yeah! Sembrava un po' Piero, Pelud Boys! Allora, siamo molto contenti, come sentite, perché mentre eravamo in diretta non era facile, noi abbiamo detto speriamo, chissà, faranno il Papa Nuovo mentre siamo in diretta, ed è accaduto, questa è una di quelle puntate che faremo ascoltare ai nostri figli, poveri loro, ma ovviamente... Io ero in radio quando... Il Papa fu eletto. Cioè, questo sarei io tra tipo 60 esatto, anni. Una sì, cosa esatto. Meravigliosa. Nonno Panzino. Inascoltabile. Non vorrei vedere mai come saranno i miei nipoti stando alle mie direttive. Ma ovviamente, diciamo come si vuol dire, le cose, le cazzate o le cose incredibili non vanno mai da sole. Vanno sempre di pari passo con degne compagne. Quindi, se è stato eletto il Papa mentre noi facciamo l'Harlem Shake, pronto col rullo di tamburi, perché l'altra classifica non la leggo con Andrea Massaro, ma con Ladies and Gentlemen. Giorgio Licata, vai Giorgio. Venga. Presentati perché non ti ha mai sentito. Applauso, incoraggiamolo. Applauso, applauso, applauso. Salve a tutti, ecco Giorgio che sostituisce Massaro. Attenzione perché Massaro si è allontanato per un po', non per sempre, oppure un po' lo sperate. Che magari... Giorgio però si è presentato in terza persona. Sì, sì, sì. Ecco parla... Giorgio, cioè è un'altra persona, sta avvenendo. Cioè ha avuto quello che viene chiamato derealizzazione e depersonalizzazione. Giorgio, innanzitutto per chi non ti conoscesse, di dove sei? Sono di Termini. Aha, e come mai sei qui? Ma per compagnia. Cerchi per l'amore, compagnia. Cerchi la fortuna. Come tappabuchi. Cerchi come il denaro. Tappabuchi. E oh. Quindi ora lui sta tappando e non vogliamo fare altre battute. Andrea. Senti, sta tappando il buco di Andrea. Ti senti pronto per una classifica? Assolutamente. Okay. E per sostituire Andrea degnamente cercherò di essere dislessico come lui. Io ti invito sempre a ricordarti che la bocca va verso il microfono anche se gli occhi vanno così. Altrimenti ti sentiamo con l'effetto Doppler. Okay. Allora cominciamo dopo che abbiamo detto la classifica delle 10 cose che avvengono davvero nel conclave. I 10 populisti da tastiera che infestano il web. Al decimo posto abbiamo il vegano. Vai Giorgio, sentiti come a casa tua. Il vegano scrive immerso nella natura, circondato da alberi cantanti e piante incazzate, traendo ispirazione direttamente dal suo santino. No, aspetta, mi piace il modo in cui legge così scientifico. Scusa, regia, potresti, mi hai capito? Perché ora tu con questa velocità sei perfetto, non devi neanche diminuirla. Adesso Giorgio ci spiegherà la figura del vegano su internet. Il vegano scrive immerso nella natura, circondato da alberi cantanti e piante incazzate, traendo ispirazione direttamente dal suo santino parlante di Paul McCartney, grande appassionato di petizioni e raccolta di firme online. Il personaggio in questione trascorre la maggior parte del suo tempo nell'invitare a simili eventi tutti i contatti di cui dispone, compresi i suoi odiati amici carnivori. Il vegano ama vantarsi con gli altri utenti del fatto che, qualora dovesse assistere all'incendio di un orfanotrofio, preferirebbe salvare l'animale domestico della situazione piuttosto che prestare soccorso a 100 potenziali frequentatori del McDonald's. Nemico giurato di circhi, bioparchi, zoo e kebabari, il vegano si ostina a decantare il gusto e le insuperabili virtù nutritive del finocchio selvatico, anche dinanzi alle più inoppugnabili argomentazioni culinarie e scientifiche. Nella versione più estremista, il vegano è pronto a rivalutare persino il nazismo, in nome della supposta appartenenza del Führer alla stirpe dei vegetariani. Senza contare che quel sant'uomo di Goebbels era pure un precursore della raccolta differenziata e un accanito avversario della vivisezione. Ma andiamo alla posizione numero 9, perché dopo il vegano, tornando anche al nostro buon Santana in sottofondo, abbiamo il rivoluzionario. Vai Giorgio! Figura immancabile in ogni pagina che intende occuparsi di politica, economia o storia, la sua presenza è comune anche nei blog in cui si discute di numismatica e di tecniche di punto croce. Questo particolare personaggio, infatti, trova sempre un buon motivo per accendere la miccia della polemica. E andiamo alla posizione numero 8, abbiamo il liberista. Studente al terzo anno di economia, il liberista scrive i propri solenni interventi seduto su una copia de I fallimenti dello Stato interventista di Ludwig von Mises. Mentre i suoi coetanei abbelliscono le pareti con i poster di stelle della musica o dello sport, il liberista preferisce sfoggiare nella propria camera austere icone raffiguranti Margaret Thatcher, bramando segretamente di possedere il telefono a lei dedicato, citato nei Simpson, o Ronald Reagan. Andiamo alla posizione numero 7, il nostalgico. Il personaggio in questione prova nostalgia per un'epoca che non ha mai vissuto, un'età dell'oro per la sua patria, un tempo lontano in cui, grazie a lui, si contava veramente qualcosa e i treni partivano in orario. Perfetto, quindi abbiamo sentito le prime quattro posizioni di questa classifica e adesso è il momento di sparci un pezzo. Oggi è il 13 marzo, nasceva nel 90 una mia carissima amica che compie 23 anni e si chiama Rita, ma nel 1960, intorno alle 10 del mattino, attorcigliato al cordone ombelicale che poi gli ha dato come effetto finale quella voce roca che tutti conosciamo, nasceva il signor Luciano Ligabue, in arte il Liga. Ci ascoltiamo, buon compleanno Elvis! Ad ogni ora, grandi successi di ieri e di oggi. La tua musica. La tua radio. Radio Panorama. Siamo pronti a passare fuori, stare dentro vuol dire stare con voi. E siamo pronti per noi, sorella, Reggio, Liverpool, Memphis, Nashville, Radio Clash, da casello a casello, in questa vita di fine secolo. Lai la la, lai la lo la lo la, è un mondo che non va a tempo. Lai la la, lai la lo la lo la, we parlarti con te di la verità, cosa ti disprezzo, cosa c'è, cosa c'è, di la verità, ti basta tutto questo. Noi siamo pronti per non cambiare, al di là di chi c'ha ragione, e pronti per un bimbo palula in questo giro di fine secolo. La e la la, la e la lo la lo la, è un mondo che non fa sconti. La e la la, la e la lo la lo la, pagalo tu, pagalo tu, pagalo, pagalo tu, pagalo tu, paga che c'è ancora bomba per noi. Buon compleanno Elvis, guarda che sogno che avrei, mi presti la vita che qua c'è ancora posto per noi, non ci rompete il tempo mai. La musica che preferisci. Panorama. Musica allo stato puro. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Torniamo in diretta, sono ritornato anch'io in studio, ma mi ha sostituito l'egregio, ti piace egregio per per il tuo compare temporaneo. Sì, è stato Giorgio. Egregio, devo dire che l'egregio stato... Giorgio, l'egregio sì, Giorgio. È stato l'egregio anche perché è stato anche bravo a sfruttare il sottofondo di Super Quark la per famosa... la classifica. Per sì, la classifica. Assolutamente, assolutamente. Allora, è stato eletto Papa Renzi, a quanto pare dalle ultime novità, lo volevano tutti, quindi il nuovo Papa Matteo Renzi I. Va bene, basta con le cazzate, andiamo subito al momento più aspettato della settimana, ovvero i film brutti con Marco. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. Marco, questo film lo consiglierai direttamente al nuovo Papa. Ciao e benvenuto, Marco! Ciao ragazzi! Ciao, grandissimo! Ne avrà molto bisogno, insomma, di un film brutto. Sì, sì, sì, è stato cattivo, si è fatto leggere al terzo scrutinio, doveva farlo al primo, quindi è stato cattivo e va punito. Sì, si deve autopunire. Dico, quante volte ti è capitato di partecipare a un programma radiofonico mentre ancora siamo tra la fumata bianca e la sede vacante? No, assolutamente è un'esperienza di vita, veramente. Sì, divina, no? Oserei dire divina. Quando ti chiederanno, ma tu dove eri quando sei stato eletto il nuovo Papa, quello che è stato letto dopo che si è dimesso, ero a parlare di film brutti con l'onda in onda. Bello, è una cosa che eleva, devo dire. Bellissimo. Allora Marco, di cosa ci parlerai oggi? Beh, come anticipato, questa sera parleremo di Plan 9 from Outer Space, che è il film che la settimana scorsa è andato e sfumato. Esattamente. Quindi il Plan 9 from Outer Space, di che cosa parla questo film? Vai Marco, tutto per te. Allora, questo è fondamentalmente il primo film brutto della storia. Il regista è il mitico Ed Wood, che magari qualcuno avrà conosciuto perché ha visto il film con Barton. Esatto, con Johnny Depp. Esatto, e praticamente questo film brutto è un po' la matrice di tutti i film brutti, perché praticamente vengono usate tutte le tecniche comuni poi nel film brutto, cioè sfruttare tutto il girato a disposizione, comprendendo anche scene magari pensate per altri film, fare tutti gli effetti speciali praticamente in casa senza spendere niente, usare costumi in maniera inappropriata, cioè praticamente per fare gli alieni usano i costumi che si hanno a disposizione, anche se non rappresentano assolutamente un alieno, e fondamentalmente dilatare, diciamo, quel poco di sceneggiatura ripetendo le scene più o meno all'infinito per arrivare a una lunghezza decente, e soprattutto una trama assolutamente assurda. Come ogni film brutto, cioè essendo il capostipite. Come ogni film brutto che si rispetti, esatto. Qui praticamente abbiamo degli alieni buoni che tentano di mettersi, diciamo, in contatto con gli umani, perché si rendono conto che gli umani sono, diciamo, autodistruttivi e vorrebbero, diciamo, come dire, educarli al viver bene, insomma, a rispettare il pianeta e tutto il resto. Degli alieni buoni, diciamo. Esatto, degli alieni buoni, che però, diciamo, si scontrano contro l'ottusità degli esseri umani, che si rifiutano di prendere coscienza della loro esistenza. Allora, questi alieni cosa inventano? Decidono di abbattere, appunto, in atto il piano 9, il Plan 9, che prevede la resurrezione di tutti i morti. Sì, un po' biblica questa cosa. Esatto, in quanto esseri, diciamo, non senzienti, non, diciamo, non razionali, non possono, diciamo, opporsi razionalmente all'esistenza degli alieni, quindi anche tutti i vivi poi sarebbero costretti, diciamo, ad ammettere l'esistenza degli alieni. Vi rendete conto, diciamo, di quanto sia assurdo, è completamente, diciamo, senza senso. Ma io vorrei capire solo una cosa, Marco: perché Plan 9? Cioè, ce n'erano altri 8 non detti da questi alieni? Non è dato saperlo, perché esatto. È brutto proprio perché è il piano 9, ma non si sa quali sono gli altri 8. Esatto, ma questo è un modo, diciamo così, per far capire che gli alieni sono talmente intelligenti che avevano anche altri piani, diciamo, ma, diciamo, hanno poi deciso di mettere in atto direttamente il 9, così, diciamo, facciamo prima. Sì, ho capito. Meno male che il regista non ne ha fatto altri 8, ne ha fatto plain 1, 2, 3. No. Esattamente. Però, diciamo, da un punto di vista filmbruttesco poteva essere, diciamo, una sequenza decisamente interessante. Sì, sicuramente. Vuoi aggiungerci qualcos'altro o parliamo della scena clou di questo film? Se ovviamente allora, c'è. Fondamentalmente le scene clou non esistono, perché praticamente il film è talmente povero che, diciamo, le scene sono veramente... sono veramente tristissime. Io, cioè, diciamo che le scene proprio si distinguono soprattutto per la staticità degli attori. Sì. Cioè, gli attori entrano in scena, stanno fermi immobili e recitano la loro battuta, tipo recita parrocchiale. Ma anche quello è difficile, cioè stare immobili lì non è che è proprio roba da nulla. Soprattutto se sì, sei un alieno. Insomma, si può apprezzare, diciamo, un po' anche proprio, diciamo, la determinazione che hanno questi attori nel voler mettere per forza in scena questo plot assurdo. Poi vabbè, gli immancabili, diciamo, l'immancabile alternanza giorno notte da una scena all'altra senza alcun tipo di logica temporale. Ma, poi bellissimi sono i fondali posticci, veramente una cosa talmente povera che dici, nonostante il film è del 56, però ce n'erano altri fatti meglio, potevi farlo meglio. Esatto, però proprio questo suscita la commozione proprio nello spettatore, dice vabbè è talmente brutta che non gli posso voler male, insomma. Sì. E poi ecco, gli effetti speciali più belli sono i dischi volanti, che sono fatti, diciamo, con i coperchi delle pentole, con il filo a pesca appeso, in una maniera veramente, guarda, talmente comica che alla fine, diciamo, come puoi voler male Ed Wood? Non è possibile. Sì, cioè. Tra l'altro Ed Wood, che è stato definito, leggo, il peggior regista di tutti i tempi. Quindi, esatto. Cioè, neanche il peggior regista. Ma Edward Davis Wood Junior, quindi suo padre era pure artista. Era Ed Wood pure lui, esatto. Sì. Ah, bello. Di padre in figlio. Okay. Perché, lui, Antonio, tu non hai visto Ed Wood, il film, quello il con Johnny film, Depp? Sì, no, il film certo che l'ho visto, sì. Solo quello. Il golfino, non te lo metti tu il golfino? No, non te lo tu metti. Lo metti il golfino. Io lo metto sempre il golfino. Ce l'ho messo adesso il golfino. È vero, è un golfino. Ce l'ho messo, sono in radio col golfino. È anche di merda, perché ha dei rombi. Sì, è anche un golfino di merda. Allora, caro Marco, vuoi aggiungerci qualcos'altro su questo film? Ma che è assolutamente un must, deve essere visto. Deve essere visto per poco. Per apprezzare la presenza di Bela Lugosi, attenzione. Che attenzione. Qui, che era Dracula, Bela Lugosi. È stato uno dei primi Dracula della storia del cinema. Qui, diciamo, a fine carriera, in cerca di qualche ingaggio, insomma, si è prestato a questa pantomima veramente imbarazzante. Sì, sì. Le sue entrate in scena sono veramente... Il declino di Bela Lugosi, poveretto. Assolutamente. Con cosa mangiamo questo film? Cioè, con cosa vediamo? Con cosa mangiamo mentre vediamo questo film? Allora, però è bello con cosa mangiamo questo film. Sì. Non è male. Rientra sempre nell'ambito delle cazzate che ha sparato Andrea in questa puntata. Ti consiglio di riascoltare la replica a mezzanotte, se puoi, Marco. Se non ci hai ascoltato in diretta, Marco. No, purtroppo arrivo a casa proprio quando mi state per chiamare, quindi diciamo. Anzi, ha chiesto al suo capo ufficio di tornare prima per poterci chiamare. Allora, Marco, con cosa lo accompagniamo questo film? Allora, io suggerirei le caramelle gommose Gym Tonic. Attenzione, Gym Tonic. Non gin. No, gym. Perché... Come palestra. Esatto, nemmeno quello, però ecco, fa parte anche un po', diciamo, della falsità un po' di questo, diciamo, della mendacità di questo snack, perché oltre ad avere questo nome, diciamo, un po' accattivante per chi è affetto un po' da etilismo, diciamo, cronico. Sì. È bello perché la confezione porta, diciamo, proprio in fronte proprio un disegno di un bambino che tira una legnata incredibile ad un pallone, no? E questo, diciamo, fa sì che il bambino, vedendo questa cattivante immagine, sia propenso a comprare queste caramelle gommose, che poi in realtà sono appunto le crepe di caramelle che dopo 2 secondi non sanno più di nulla e ti lasciano il cavorale completamente inondato da colorante alimentare, quindi che insomma schifo. Sono anche abbastanza anche dannose, che poi sono talmente dolci che, diciamo, portano alla carie immediata. E le mangiamo vedendo questo film perché essendo il capostipite dei film brutti, queste caramelle dovrebbero essere il capostipite delle caramelle gommose brutte? Fondamentalmente, diciamo, sì. È un'analogia assolutamente accettabile. Hai visto? Sono bravissimo. Marco, allora, prima di salutarti, un pronostico. Il Papa sarà bianco, nero o brasiliano? Ma è secondo me bianco, purtroppo. Secondo però... te bianco. Purtroppo no, c'è anche purtroppo una notarella polemica. Cioè, ti piacerebbe aprire al nuovo? Cioè, un film brutto, come dovrebbe iniziare, secondo te? Con un papa bianco o nero? Beh, dovrebbe essere assolutamente un papa nero, che poi magari sicuramente viene sventrato nel giro di 5 secondi. Come succede, diciamo, in tutti i film brutti, perché voi sapete che, a parte qualche rara eccezione, il personaggio di colore muore sempre. È vero, brutti, è vero, è vero. Dovrebbe essere sventrato però... da una guardia svizzera zombie, secondo me. Assolutamente sì, però nemmeno con la, diciamo, con la parte metallica, direttamente con il legno, secondo me. Sì, con la lancia al contrario. Esatto. Va bene, Marco, ti ringraziamo tantissimo in questa puntata bellissima, speciale dell'Onda in Onda. E il tuo film brutto ci sta sempre. Scaricato Plane 9 from Outer Space, si trova, penso, in internet ormai, tanto è passato il diritto d'autore dopo tanti anni. Marco, ti ringraziamo, ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre con i tuoi film brutti, sempre con L'Onda in Onda, quindi ci ascoltiamo subito il prossimo pezzo con Piotta, e noi ringraziamo ovviamente Marco e ci rivediamo subito dopo, magari con qualche notizia sul nuovo papa. Ciao! Ciao. Di quest'onda sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, shalala. Deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi. Dov'è che vai? Cosa farai? Ti reggerai o scivolerai? Sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo. Sulla tavola è estate, inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno. Entriamo, non era Piotta è morto, il computer ci ha fatto uno scherzo, era la nostra sigla. Era l'autocitazione. Era una canzone inedita. Inedita. Non l'abbiamo mai sentita. Mai sentita, mai sentita. Assolutamente. Va bene, allora, continuiamo con la classifica. Naturalmente, no? In questo momento tutti siete lì davanti alla TV, ma noi speriamo con il volume a zero mentre ascoltate l'Onda in Onda, sì, perché sì, tutti guarda, aspettiamo. Questa diretta sarà la più ascoltata della storia. Devo dire che comunque su Facebook già ci sono due da premiare. Un mio amico che ha scritto, al contrario di tutti, diceva abbiamo spapa, ma aspettiamo, fata bianca, ha scritto scusate non esco ma sento freddo, e un altro ha condiviso la foto di un palermitano che arrosta e stigliola, oh picciò, falso allarme, colpa mia. Comunque, con la fumata bianca delle stigliole. Spiegala, se no. Cosa sono le stigliole, Andrea? Le stigliole sono budella di qualsiasi animale che puoi trovare per strada. Lepri. Presso. No, anche uomini. Anche le budella di Massaro. Anche uomini. Anche sì, uomini. Probabilmente. E noi poco fa parlavamo dei vegani, quindi il vegano ovviamente non mangia. Non mangia. A meno che non sia di essere umano, perché lei odia, il vegano odia l'essere umano. Esatto, oppure sarà di budella di vegano cucinato sulla brace sporca, o come diciamo a Palermo, lorda. Lorda è cucinata con un po' di tutto, limone, sale, eccetera. Andiamo, continuiamo con la nostra classifica, dai, i 10 populisti da tastiera che infestano il web. Breve riassunto, alla posizione numero 10 avevamo il vegano, appunto. Alla posizione numero 9 il rivoluzionario, alla 8 il liberista, alla posizione numero 7 il nostalgico. Ora andiamo alla posizione numero 6 e abbiamo il nichilista. Il nichilista vanta solide basi umanistiche, a seconda del colore politico fonda il suo credo personale o sulla filosofia di Julius Evola ed Ezra Pound o sul pensiero di Karl Marx e Friedrich Engels. Dall'alto della sua cultura impartisce lezioni colme di retorica anche nel dibattito più banale, irritando admin e utenti che inevitabilmente si perdono nella complessità della sua dissertazione. E andiamo alla posizione numero 5. Vorrei solo aggiungere che, tanto per dirlo, Ezra Pound è stato, cioè i parenti, i discendenti di Ezra Pound hanno fatto causa a Casa Pound. Non è Ezra. Erza. Ezra. E vabbè, non riesco a dirlo. Hanno fatto causa a Casa Pound, sì, per l'appropriazione del nome che non rappresenterebbe l'ideologia del, della poetessa. Questo però, non lo sapevo. Niente, andiamo avanti. Posizione numero 5. Il contabile. Il contabile. La crisi economica ha generato la nascita di questa particolare figura di utente. La recessione internazionale ha infatti insegnato a tutti i comuni cittadini a limitare le proprie spese. Il contabile, andando oltre, si è specializzato nel fare i conti anche nelle tasche degli altri. Andiamo alla posizione numero 4. Immediatamente filati abbiamo l'anti-europeista. Mi ricorda qualcuno? Tipo Beppe Grillo. Sì. Altra figura connessa allo scoppio della crisi economica. Fino al 2008 l'anti-europeista ha probabilmente ignorato l'esistenza dell'Unione Europea, essendo troppo impegnato nel tentativo di nel tentativo di decifrare i colori di quella strana moneta misteriosamente chiamata euro. Dopo aver colmato le proprie lacune attraverso la rapida consultazione dei peggiori siti di informazione alternativa, l'anti-europeista individua la sua nuova ragion d'essere in due obiettivi fondamentali: il ritorno all'amatissima lira e l'abbattimento di quel baraccone autoritativo che è l'Unione Europea. Ah. Discepolo di Adam Cadmon, l'anti-europeista è quello che i trattati dell'UE finiranno per sancire la fine della libertà dei popoli. Perché ridi? Perché hai detto il baraccone autoritativo invece unitario? Autoritario. I trattati dell'UE invece dell'UE. Vabbè. Dell'UE si può dire dell'UE? Sì, no, dell'UE. Che è UE? Discepolo di Adam Cadmon, l'anti-europeista è certo che i trattati dell'UE finiranno per sancire la fine della libertà dei popoli e l'inizio di una nuova schiavitù, grazie alla quale quella crucca della Merkel e quel mangiarane di Hollande, l'anti-europeista è anche un grande estimatore dei più beceri stereotipi nazionali, otterranno ingentissimi guadagni personali essendo i padroni delle famigerate banche. Ed eccoci al podio, alla posizione numero 3, il forcaiolo, quindi tra le figure appunto che sul web fanno i bei populisti. Il forcaiolo rappresenta l'espressione degli istinti più triviali dell'essere umano. Il personaggio in questione infatti odia con ferocia chiunque sia sospettato di aver commesso anche il più rilevante dei reati. Cultore del codice di Hammurabi, mutilerebbe senza pietà l'immigrato colto nell'atto di rubare una mela. Seguace di Pol Pot, getterebbe da una rupe il vicino che fa schiamazzi. Ma subito alla posizione numero 2, medaglia d'argento per il complottista. La figura più irrazionale, paranoica, suggestionabile, che è possibile rinvenire nel mondo dei social network. Interessato sia alle teorie della cospirazione in seguito agli eventi dell'11 settembre, l'innocuo passatempo che inizialmente lo portava a girovagare per qualche ora sui siti di controinformazione ha poi preso il sopravvento sulla sua esistenza, assurgendo a vera e propria filosofia di vita. Andiamo avanti, e rullo di tamburi alla posizione numero 1. L'urlatore! L'urlatore prende il peggio di ciascuno dei personaggi finora descritti, moltiplicandolo per mille e sommandolo ad una conoscenza approssimativa non solo della grammatica, ma anche delle regole basilari della comunicazione tra esseri umani. L'urlatore è un martire della famigerata formula metti mi piace e condividi, e la sua principale caratteristica è quella di avere sempre ragione. Nessuna risposta, neppure la più razionale e veritiera, può abbattere i suoi incrollabili dogmi. Benissimo. E voi, insomma, quale populista da sera vi sentite? Esatto, un attimo se ci sono novità. Se ci sono novità per quanto riguarda il Papa, ancora nessuna, ancora anche niente. Se Repubblica non è affidatissima, dato che abbiamo affidatissima dato che abbiamo detto noi in anteprima rispetto a Repubblica l'annuncio della pomata bianca, quindi diciamo attenzione. Ok, va bene, allora credo che sia il momento di darci i saluti, quindi non possiamo darvi il nome del Papa in diretta, noi però state lì a seguire, e se non ci avete ascoltato a mezzanotte ascoltate la replica per emozionarvi, e magari ci sarà il nome del Papa in replica. Ci sarà il nome del Papa in replica, così. Che spunta in cioè noi stiamo parlando comunque bello Sbalagas. Comunque quindi dico, io ve lo dico, è Renzi il nuovo papa. Secondo me no. Comunque dicevamo, se vi siete persi il momento in cui, ma perché quello si tocca di Polino Benfi? Porca, perché ho la cuffia che falseggia, la cuffia gay, va bene. Allora dicevamo, se vi siete persi il momento in cui c'è stata la fumata bianca, riascoltateci perché capirete come siamo impazziti. In più, se andate sulla nostra pagina facebook.com/londainonda, trovate il bellissimo video dell'Harlem Shake girato proprio mentre in quel momento i cardinali eleggevano il nuovo vescovo di Roma, nonché papa. E poi papa. Visitate lercio.it, che è appunto il sito dei ragazzi che ci danno gli spunti per il TG Lercio, ci danno proprio le notizie da leggere per il TG Lercio. Andate a vedere, perché lì scrivono, insomma, sì, inventano, sì, sono delle bravi, sono bravi, vere e sono proprie bravi. Notizie pseudo-reali, diciamo, pseudo-reali, che potrebbero fanno anche scompisciare, accadere. Quindi andatevela a vedere, noi ve la consigliamo, vi salutiamo, ci vediamo mercoledì. Aspetta, ringraziamo prossima. Giorgio, giusto, ringraziamo che Giorgio, che mi ha aiutato nell'inizio della classifica appunto delle 10 personaggi populisti del web. Ciao Giorgio, puoi salutare? Ciao. Ciao. Vuoi ringraziarci? Grazie. È bello quando è spontaneo. Va Giorgio bene. Mi sa che la prossima settimana farà le previsioni del tempo del nostro nuovo TG. Quindi non ferma. Non ricordiamo fermate. Invece, scusate, che subito dopo di noi ci sarà il programma delle Hit Super Hit. E poi ovviamente Carta Straccia con Emilia e Marcella in tarda serata. E niente, basta. Va bene, allora noi vi ringraziamo. Al solito lui era Andrea, lui era Antonio, e dietro il vetro Bummo e basta. E ciao. Giorgio, va bene, vi ringraziamo. Ci vediamo mercoledì prossimo, ciao, ciao. Sempre basta, ho detto. Sto insomma. Stai zitto.